Marta Colò. Allora, per quanto riguarda appunto la crisi ambientale, credo che sia sotto gli occhi di tutti che siamo di fronte a una crisi climatica gravissima, a cui però insomma mi sembra che l'amministrazione comunale negli ultimi anni abbia solamente risposto con un'operazione di greenwashing, perché mentre appendeva uno striscione davanti al consiglio comunale, contemporaneamente approvava e continua ad approvare grandi opere inutili e inquinanti. Quindi il primo punto per rispondere alla crisi climatica che abbiamo di fronte è quella di dire uno stop alle grandi opere inutili inquinanti. Pensiamo al passante che continua a incentivare di fatto senza risolvere i problemi il trasporto su gomma o altre grandi opere che non vanno nella direzione di aiutare effettivamente i cittadini, come la linea rossa del tram, ma appunto solamente alimentare speculazione immobiliare. Quindi di sicuro questo è il primo punto. La questione poi della mobilità, che va completamente appunto ripensata per disincentivare realmente il trasporto su gomma e potenziando i collegamenti del trasporto pubblico anche rispetto alla provincia e alla città metropolitana, e poi fermare anche i poli logistici che stanno venendo costruiti in tutta nella pianura appunto bolognese, che portano a cementificazione e lavoro povero, e poi fare pressioni anche per l'abolizione della legge regionale all'urbanistica, che di fatto si dichiara consumo di suolo zero, ma così non è, e comunque alimenta insomma dà nelle mani dei privati, di fatto alla speculazione, alla rendita e la gestione della città, mentre invece appunto per far fronte alla crisi che abbiamo di fronte c'è bisogno di ripensare la città in termini realmente sostenibili e a favore dei cittadini.